Vuitton pagherà complessivamente 4,3 miliardi di euro per l'operazione. Per gli azionisti di minoranza è sicuramente un'operazione altrettanto importante, perché si tratta del 60% a premio rispetto ai prezzi di chiusura di venerdì, e dal punto di vista un po' più tecnico, quindi un po' valutativo, è un'operazione molto ricca, quindi hanno sborsato veramente tanti soldi, poiché il Louis Vuitton ha pagato circa 45 volte gli utili prospettici di Bulgari sul 2011. La scommessa che fa, a mio avviso, per pagare un prezzo così elevato è dovuto al fatto che inserisce nel proprio portafoglio gioielleria, che era forse un po' l'anello tra virgolette debole del gruppo, un brand di assoluta qualità qual è il gruppo Bulgari, con prospettive di crescita soprattutto nei mercati emergenti, quindi parliamo soprattutto di Cina, veramente molto molto forti.